di tamburo, segreti e sogni custoditi nel cuore, lampi nel cielo di un amore che vuol sbocciare. Un'emozione, quelle lacrime sul viso, senti forte il calore del suo sorriso. Oh, è la sua mano che ti prende con sé, è il bacio di sale dentro come la notte ed il suo ritmo veloce. Un'emozione, quelle lacrime sul viso, senti forte il calore del suo sorriso. Oh, è la sua mano che con sé, è il bacio di un piccolo bebè, è una foglia che vola accanto, è il respiro del vento caldo, è la sensazione. Sensación.